Roger on Union 121. Bay 18, Roger. Roger. 34, Windows 34, come in. El blue a el verde iluminan la stanza. En fondo al muro un vecchio pianoforte, la polvere sulle dita, la pelle si rifiuta, ma il cuore batte forte come per un vecchio amore perduto. Magiche atmosfere, magiche atmosfere. Magic atmosphere, magic atmosphere. Il canto e il pianto, fratelli e compagni da tempo, lentamente chiudo gli occhi, lasciando che il ritmo mi porti in luoghi inesplorati della mia anima. Niente più ansia e paura, sento una voce che mi chiama. Magic atmosphere, magic atmosphere, magic atmosphere.